have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done. Say either, and I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, either, neither. Let's call the whole thing off. Well, you know. Ciao. Ciao a tutte, buonasera, buon spirito di patata, che lo spirito di patata sia con voi. E vi presento una terza voce con noi questa sera. Sì, sì, sì, ma bruciamocela subito. No, no, no. L'avete riconosciuta, riconosciutissima. Bene, bene, bene. Una puntata si sente. Una puntata spumeggiante come al solito. Vi accompagniamo alla fine del martedì autogestito da femministe e lesbiche. Ci potete ascoltare alla fine, proprio ci potete ascoltare sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, oppure in streaming www.ondarossa.info. Ma che caldo fa oggi? E ci potete, che tetti sono l'ascelle, non è che fa caldo. E potete chiamarci allo 06 49 17 50. Potete, fateci gli squilletti, fateci sentire e scriveteci. Gloss si sta spogliando in diretta davanti a noi, cioè davanti a tutte, penso. Esatto. Peccato che non le possono, non mi possono vedere. Ah, qua iniziamo a fare del coming out. Sì, sì, perché stasera parleremo del coming out, visto che l'11 ottobre è stata la giornata internazionale del coming out. Internazionale. Chissà questi internazionali che hanno fatto coming out. No, che abbiamo trovato una sfiga del nostro. C'è anche un video che manderemo anche in diretta. Sì, un video e poi e poi se volete telefonare e fare il poi se volete venire out, e poi se volete venire qua. Se volete venire qua, benvenuti. C'è un party più tardi con Clo. Then that might break my heart. So if you go for oysters and I go for oysters, I'll order oysters and cancel the oysters. For we know we need each other, so we better call the calling off. Let's call the whole thing off. I say father and you say pater. I say mother and you say mater. Pater, mater, uncle, auntie, let's call the whole thing off. A proposito di coming out, sì. Un coming out che, sì. Di cui abbiamo parlato. Comunque buonasera, oggi abbiamo trovate, siamo spirito di patata. Ciao Veronica. La trasmissione di femminismo pop a chiudere. Però a chiudere il stare sempre a parlare delle lesbiche. Allora io devo dire una cosa. Stai buona, no, stiamo parlando di coming out. Attento se senti. Ma perché no? Io mi sì, sento. Sì, io mi sento. Vabbè, so io la sento. Se tu non la senti c'è un problema. Cioè, vabbè, diciamo che c'è un che problema di percezione. C'è un po' di nervosismo. Togliti la giacca, che ne so. Spogliati, come sai fare tu. Vabbè, comunque il problema, cioè, facci sentire un po' d'ormone. È la disturbatrice della situazione. Allora, non vi infatti, però ci sediamo, facciamo che ci sediamo. E salviamo le nostre ascoltatrici che sono le 22:10. Non ci parliamo una sopra l'altra, altrimenti loro salviamo le anime. Stai buona. Altrimenti loro non ci capiscono più. I santi padri poi chissà cosa dicono. I santi padrini. Vabbè. Che prima abbiamo letto una cosa tra di noi, va bene. Poi ve lo leggeremo. Vi prenderemo a letto stendendovi con Beatrice Presiado. Con Maria Dani, no. Non accenderete più la radio. Va bene, comunque, parlando di coming out, uno dei coming out più famosi che ha tenuto banco per, sulle riviste per molto tempo è stato quello di Tiziano Ferro. Jerry Scotti. Niente, è stato tizio. Jerry Scotti comunque anche lui dovrà farlo prima o poi, eh. Perché si vede che è gay. Perché si vede che è gay, sì. È uno di quelli che ha proprio fatto tutto per nasconderlo, ma non... Sì, fai complimenti alle tipe. Ah, come elegante lei. Cioè, si capisce che non è interessata alla materia, diciamo. Infatti dice come elegante. Come elegante lei. Lei poi. Lei. Vabbè, comunque Tiziano Ferro l'anno scorso ha fatto questo coming out, è andato su Vanity, tutte queste riviste patinate. E poco tempo fa è andato anche in una trasmissione come ospite dell'edizione spagnola C'è posta per te, che noi abbiamo tradotto con un correo per te. Tengo un correo para ti, questo. Tengo un correo para ti. No, invece si intitola. Invece no. No, invece no, in invece spagnolo no. È hai una cosa che te quiero decir. Una cosa. Hai una cosa che te quiero decir. Che è condotta da Jorge Javier. Anche lui è gay dichiarato. Un ragazzetto. Lo vedi che lo potrebbe fare pure Maria De Filippi. Ma perché non si dichiara? Ma pure è lei? Qua pure, non fare illazioni. Vabbè, comunque. La piega dello sketch ha preso una piega maliziosa. Lui gli fa sono innamorato, dice Tiziano. E lui fa ma dai, sei monogamo, gli fa Javier. Lui fa quanto mi dispiace. È già la prima battuta. La seconda, quanti anni hai? E Tiziano Ferro risponde 19. E lui dice ti ho chiesto l'età, non con quanti uomini sei stato. Cioè cosa che proprio in prima serata su Canale 5 la promiscuità spagnola. La promiscuità, sì, spagnoli. E poi, vabbè, parlando però un po' più seriamente, Tiziano Ferro dice che i gay sono invisibili, cioè non esistono. No, ma in TV in Italia i gay non esistono, quindi sono invisibili. Questo è un tema. Questo è un temone. Cioè, lui dice, praticamente, nello spettacolo i gay sono invisibili. Sì. Anzi, poi fa la battuta Maria De Filippi, non mi mette in situazioni come questa. No, aspetta, ma lui dice Maria De Filippi o dice Maria? No, ha detto Maria. Maria. Sono tutti una grande famiglia là. Certo. Maria non mi mette in situazioni come questa perché ricorda con amarezza gli italiani. In Italia gli omosessuali non esistono. E con questo abbiamo un pezzo musicale. Ce l'abbiamo. E no, con ma questo, non ti deprimere, su via. E poi, vabbè. Ma voi vi fanno dire queste cose. Cioè, voi avete una trasmissione su questo. No, anche su non altro. È che voi molto peggio. Diciamo. Ah, voi trasmettere su questo proprio. A parte che Tiziano è il nostro. A parte che Tiziano è un amico. Esatto. Che salutiamo. Che salutiamo, Tiziano. È peccato che non la possiamo mandare in onda. Però, ciao, Tiziano. Ciao, Tiziano. Bravo, eh. Però c'è qualche cosa cantata da qualcuno. Da lei, di lui. Da lei, di lui. Vabbè, però. Ma insomma, invece ci ascoltiamo le cumbia queer. Ah, brava. La canzone come si chiama? La indovinate. Me recomendo un lugar sensacional, lleno de chicas bonitas. Yo ya quiero estar ahí, lejos de aquí. facciamo rientrare Madonna dalla finestra, così, coverina, cover. Siete all'ascolto di Spirito di Patata, sono le 22:16. Vi ricordo che Spirito di Patata, sicché è una trasmissione di femminismo pop, la trovate nei più pop social network che stanno adesso sulla piazza. Quelli in voga. Quelli in voga. Quindi ci trovate su Twitter, che stiamo twittando mentre trasmettiamo, perché ormai siamo ultra multitasking. Io no, in realtà mi sto ferma al mix perché sennò faccio danni. E poi, però, c'è l'ospite. Poi c'è l'ospite. Il digesto. L'altra spina nel fianco, non ne bastava una, ma ce ne sono due. E invece poi ci siamo sempre su Faccia Libro, ci trovate come MFLA, ma abbiamo pure la pagina di Spirito di Patata. Cliccateci, condivideteci. Allora, prendiamo con questa parentesi di coming out, poi parliamo dei film. Scusa. Come una parentesi, cioè non è proprio... tutta la puntata, poi è un'ora a parlare di questa cosa. Adesso facciamo poi vedere. Mettiamo anche l'audio, dura un minuto l'audio e poi cambiamo argomento. No, allora. L'11 ottobre questa. Posso fare un appello? Fallo. Allora, io penso a tutte le amiche e gli amici che ci ascoltano. L'appello è: fate fare coming out ai vostri amici e le vostre amiche, perché pure quello, cioè, una certa non è genitore, queste cose della famiglia, io non ci credo a questo spazio che per forza devi superare il trauma della famiglia. Poi se volete discutiamo, perché sennò non discutiamo di niente qua. Noi qui discutiamo di niente. Allora pensavo, no, però ho un amico che magari, no, ti senti più tranquillo, non ti giudica. Dillo a lui che... almeno, no? Ma no, ma ditegli agli amici: ma dai, ma lo puoi dire che sei gay? Dai, capito? Ci sono certi che sono del sesso degli angeli, eh? No, però certi si vedono. Cioè, si vedono che hanno proprio dei problemi. Stanno bloccati. Allora dico: ma dai! Portateli in dei posti a farli divertire. Io dico solo un appello. Così. Vabbè. Chi ha orecchio per intendere? Chi ha orecchio per intendere? Intenda. Va bene, io volevo parlare uno dei primi coming out lesbici, se non forse il primo nella storia proprio del pop televisivo e da rivista così un po', che fu quello di Martina Navratilova nel 1981. La ricordiamo tutte, Martina, grande tennista, tutte facciamo tennis. Tutte. Io pure ho fatto anche la raccatta palle a Martina. Ecco, infatti, raccontaci questa un'esperienza esperienza. Personale. Dai, vai, raccontaci. Niente, ero lì, te la guardavo da dietro. O devo dire, non so se si può dire a quest'ora. A quest'ora si può dire. Da dietro proprio. Uh-huh. E niente, lei era lì. Da davanti. Lì che esercitava il suo sport. Con tutte. Vabbè, traducendo, stava giocando una partita. Perché ricordiamo, stava facendo la raccatta palla a una partita di tennis. Degli internazionali di tennis. Ecco. E niente, lei era. Tre anni c'avevi. Brava. Aveva questi muscoli in tensione. E poi ci girava e ci chiedeva a noi le palle per giocare. Pensa un po'. E noi eravamo molto contente di interagire in questo spazio che era il campo da tennis. Quindi sport, insomma. Andiamo avanti. Vabbè, bello lo sport comunque, perché no? Poi c'è un sacco di sportivi che sono gay, non lo dico. Ma lo sai che no, ho letto da qualche parte, non vi saprei dire la fonte precisa, ma di Cecchi Paone, che rilascia un'intervista che dice che la gente lo ferma per dargli i suoi nomi su chi, con le persone con cui lui è uscito. Vabbè, lo potete fare anche con noi. Noi abbiamo una rubrica dentro questa trasmissione. No, però da una parte stanno facendo una campagna, non so bene dove, in che paese. Per tirare fuori l'omosessualità nello sport, soprattutto nel calcio. Sì. È una campagna che stanno facendo, non mi ricordo bene il paese, però veramente questa cosa. Sì, l'abbiamo letta l'altra volta. E che paese è? Non mi ricordo. Olanda, mi pare. Esatto, un paese del nord, sì, nord Europa. E quindi questa cosa dell'omosessualità nello sport, perché è chiaro che c'è un forte machismo, eteronorma, no? Nello sport e negli spogliatoi. Per cui basta, stai diventando troppo seria. Veniamo al coming out delle fiction. Madonna, invece. Dai, veniamo al coming out. Allora, sembra impossibile, ma anche ma in Italia c'è stata una punta di diamante, ovvero una fiction che si chiama Tutti pazzi per amore, e mi chiedo, su Rai 1, e mi chiedo perché non ce la siamo vista. Ma perché come mai non ce l'abbiamo mai sentito parlare? Tutti pazzi per amore. Perché voi siete anglofone. Dove c'era una coppia lesbica e Eva fa proprio il coming out in una puntata della terza serie. Sì. Adesso sì. Eva ci verrà riproposta da Giulia. Sì, da Giulia. Claudia. Non vi preoccupa. Quasi sbaglio il coming out. Sono tua, cioè l'ho presi qui. Spero che valga lo stesso. Scusa, i tuoi genitori? I miei diciamo che si stanno riprendendo. Quanto sarà passato un paio d'ore da mezzanotte, no? Saranno nella fase della realizzazione. Oddio, l'ho detto. Ma non ho capito, ce gliel'hai detto così a bruciapelo? Sì, guarda, non lo so che mi ha preso. Mi è uscito così, in automatico, e si vede che non ce la facevo più. Ti ho costretto io. Ma no, amore, ma scherzi. Ecco, qua comincia il solito trip italiano improponibile. Ti ho costretto io, me l'hai detto tu. Perché? Ma state ancora a parlare? Sì, stiamo ancora intanto a parlare. Qua la radio si è coperta di lesbiche perché c'è stata una call. Si è riempita perché c'è stata questa call e sono arrivate tutte a dire: ah, mi abbiamo sentito così, capito? E diciamo che posso dire una cosa: c'è altra gente che vorrebbe parlare di altre famose. Perché? Perché. Diciamo che il tema spinge. Ma lo sappiamo, tema noi sappiamo. I picchi di ascolto, Radio Onda Rossa, cioè i picchi di ascolto con Spirito di Patata. Ma tu che ne sai? Che ma la ne conoscete voi Veronica, ad esempio? Ah, vero. E Ginevra? Vabbè, ma tu volevi parlare di un film, però. Volevi parlare di un film argentino, vero? No. Non volevi fare la recensione di un film argentino? Dopo, più tardi. Dopo. Siamo un po' tu invece volevi fare la recensione del film? No, di un film che secondo me non bisogna andare a vedere, ma ci intestiamo subito. No, The Brave. Ah, brava, quello sì. Posso dire che questa voce che The Brave, la tipa è lesbica? Ma voi l'avete visto? Ma che è? Basta adesso. Non è così. Ma chi l'ha detto? Sono monotematico sulle lesbiche. No. Cioè, posso dire una cosa? Non è così, perché l'ho visto. Non è così. Anch'io l'ho visto. Ti sembrava lesbica a te? No. Vabbè, appunto. Vabbè, sarà anche però comunque un personaggio simpatico al di là di, cioè può pure decidere di semplicemente di non volersi sposare. Ma dice che il lesbismo non è legato, cioè la simpatia non è legata per forza al lesbismo. No, magari anche no. Anche no. Anzi, non anzi, esageriamo, anzi, come al solito. Anzi, si potrebbe dire basta. Ma perché? Vabbè, 0649 17 50. State ascoltando Radio Onda Rossa anche se non sembra. Anche se non riuscite a capire una parola, perché continuiamo a parlarci una sopra l'altra. Questa cosa non si fa perché le ascoltatrici non ci sentono. La netiquette della ecco radio. Brava, grazie. Mamma mia, ne so tutte. Le sai tutte, prova a applicarne anche qualcuna. Allora, siete sempre all'ascolto di Spiriti di Patata. Stiamo parlando di coming out, veri, presunti, famosi, non famosi. Abbiamo appena sentito una delle sceneggiature, cioè perché gli sceneggiatori italiani proprio si applicano quando fanno queste cose. Era un coming out in una serie televisiva italiana che si chiama Tutti per Amore. Tutti pazzi per amore. Vabbè, tutti pazzi insomma. Per amore. Poi insomma una tristezza. Era meglio che si chiamava, che ne so, auguri sono lesbica. No, perché la fantasia ci si incolla, però vabbè, dai, un modo originale per dirlo in fondo, perché mica ce n'è uno. Ciao ragazze del divano. Vabbè, perché dovete sapere che la Radio Onda Rossa ha una regia e poi uno studio dove ci sta un divano. E le ragazze del divano. E le ragazze del divano, perché oggi è martedì e quindi a quest'ora ci stanno solo le ragazze del divano e le lesbiche del divano. Va bene, e di che vogliamo... No, metti la canzone e poi dopo cambiamo discorso facendo la recensione un attimo di The Brave. E poi il nostro ospite, la Demential, la cacciamo subito, esatto. Se rimane ancora con noi ci se farà... mi avete trattenuto fino a quest'ora. Ci farà una recensione di un film argentino. Ancora. vabbè, lei è un'altra che dovrebbe fare coming out. Sogno sembra alla finestra, è vero, gente capurri appasciata, gente bella l'aria, allegra, mogiosa e sediata, gente riputtuta, con la cicchia esata, bocca scetta, turi ho voglia di qualcosa, un bassa bocca, un lemon soda, e tu già rispondi, Giuse, quando ti chiamavi Giuseppina, eri lecca, fabbrio, sciacca, granita, turi tu una fattusciata, e ora che sei grosso imprenditore, t'anzignara classe in dovarrare, sogno sembra alla finestra, è vero, gente spacinata, sto agata ande panchini della piazza, sto terzo ma sigaretta, gente casa incontra e dice ciao con Nataleata, gente casa all'asca, gente casa abbraccia e poi si vasa, gente casa pasce in genna cigna, si strapazza e non si pinna, non gasta altro inverno, non si canta missa, gente casa fa le canna sarda, ma ci fa tuare a tavola con sada cucumana. La domenica mattina dai a to parlanti della chiesa, voci paci coppola, nangionica se trasi dentro l'ossa, peccatori rinunciati a dei peccati della carne, quando diavolo s'appaccia rafforzate via mutanna, quando attacchio della chiesa si posteggia un macchinone, scennisario branchia detto ralleone, paci coppola balbette a mocchia l'omelia con tre parole, perché sua maestà sa fare la comunione. A panzuttare sogno sembra alla finestra, è vero, aranni civiltà gastato, ogni turche pre cristiani si stringevano la mano, tanto si pensava che la diversità e ricchezza, tempi di pittizza, di poesia, di amore e di saggezza, ciò qua stato ieri, oggi forse che potessi ritornare, so trovamo semi buono di chi andare da sta terra, fuoco e mare, oggi sento che mi parlo cuore e dice che le cose stanno per cangiare. E mentre attendiamo sempre con trepidazione il coming out delle nostre artiste, musiciste, pittrici, presentatrici, ballerine, perché tanto lo sappiamo. Beh, noi avevamo lanciato una serie di cose da fare dopo, però siamo infognate qua sul... Scusate, ma se ballerine... Le ballerine sono quelle che frequenta lei, poi ci sono le infermiere, poi ci sono... Poi ci stanno le, non so, le cantanti. Le cantanti. Le cantanti le abbiamo già dette. Le manager. Beh, le poi manager. Che ci stanno? Tutte le parrucchiere. Le fotografe. Ma stavamo parlando delle persone famose, non di tutto il mondo. Se no, dobbiamo elencare tutte le professioni fino a domani mattina. Stiamo ancora qui. Vabbè. Qua un blog consiglia come fare coming out, almeno spunti, perché solo tu lo sai, nessuno ti dice come lo devi fare, ora e subito, ci sarà sempre qualcuno che ti dirà: aspetta per tua nonna, tuo papà oggi è nervoso. No, fallo, agisci subito. Poche aspettative. Ma che devi avere poche aspettative nella sì. vita in... No, cioè, sì, nella vita in generale, pure questa cosa. Vabbè. Il futuro, il futuro è rosso. Quello che viene dopo è tanto semplice quanto splendido. Splendido? Splendido. Innamorarsi, non è che ti innamori così perché hai fatto coming out, ti potresti innamorare come sì, come che no. Vabbè, però, però il punto 6 è il più importante: sesso facile. Perché vabbè, questo è per convincere le persone. Una volta fatto coming out, può succedere che la tua popolarità cresca, soprattutto nei locali gay e lesbo. Ma che messo? È normale. Per strada. Gli abitué di quei locali riescono a individuare subito un volto nuovo ed è possibile che tu stringa nuove amicizie. È il tuo momento per godere appieno della novità, ma è anche il momento per stabilire limiti e porsi dei traguardi. No, comunque su internet ci scrivono certe stronzate epocali che solo noi le possiamo leggere. Scusami, però, scusa, se tu hai avuto un'infanzia, un'adolescenza difficile, sfigata, cioè si sa che non è il mio mondo, però si sa che nei locali gay funziona questa regola. È vero. Questo che chi scrive su questo blog è evidentemente un maschio gay che riporta una realtà reale del dire mondo pure gay. Che non solamente non necessariamente che siano esclusivamente gay, ma i gruppi spesso sono dei microcosmi. Guarda pure Beverly Hills, si mettevano e si lasciavano in 8 persone, al massimo ne aggiungevano uno. Lo sapete pure nella vita, sì, beata a te. Già ne avete parlato. Certo. Sì, no, però vabbè, a parte quel microcosmo fittizio hollywoodiano, ma anche tra di noi, magari se usciamo con un gruppo di 15-20 persone e la gente si accoppia, si mette, sono endogamici i gruppi, a me questa cosa mi spaventa. No, non credi che siano endogamici? Sì, sì, no, io parlavo di queste realtà super commerciali, cioè nel senso che il problema è il consumare, dai, vai. No, il problema è anche nel consumo, cioè mi sembra non voglio fare un'analisi antropologica, sociologica, però anche perché questa non è loro, spesso vi è un consumo del sesso che è molto vicino a cioè piuttosto che essere vicino a un agire libertario, libero, tranquillo, no? Da condizionamenti, da oppressioni, eccetera, mi sembra più legato a un approccio consumista proprio dentro le logiche di mercato. Questo. Chiama anche tu lo 0649 1750. No, scusa, tu che ne pensi? Tu, ragazza che sei appena entrata, no? Cosa ne pensi? Cioè, tu pensi che ci sia un consumo sessuale all'interno dei locali gay, per cui non è che si parla di relazioni liberate, aspetta fammi finire, però non è che si parla di relazioni liberate, ma si parla di un approccio proprio interno. No, non hai capito, tu a spirito non ci puoi stare, noi dobbiamo parlare di stronzate, non si può di niente, però qua no, di no vai, Dio, che cosa? Io però sto facendo un altro tipo di discorso, perché se tu dici là nel locale io gay, che altro lo spero che ci sia questo consumo. Ecco, vabbè, comunque, mamma mia, questa ragazza. Io stavo dicendo un'altra cosa, però. Stavo dicendo. Dai, non mi potevi ammenare qua, scusa. Stavo dicendo: se nel locale commerciale arriva uno nuovo e tutti quanti se ne rendono conto, e quindi, è vera questa cosa, ma è vero pure che. Che funziona così in generale tra microgruppi, che non è il. Il locale commerciale è il gruppo del liceo, il gruppo politico. Quando arriva uno nuovo, tutti se ne rendono conto e c'è la novità. Vabbè, io provavo a dire delle cose in più, però se vogliamo dire questa cosa, sì, questo è vero. Però vabbè, facciamo finta di niente. Cioè. Sì, è vera questa cosa dell'endogamia. Però si riesce a fare una critica per me rispetto a. Perché non c'è niente di male nel, per me, no? Poi discutiamo di questa cosa. Nel fare sesso, avere delle relazioni intime con delle persone che hai vicino, ok? Il problema è una condivisione di delle regole, delle regole tra virgolette, c'è una condivisione di vissuti, delle relazioni di fiducia, eccetera, per me, perché altrimenti se parla detto ho tradito, tutta questa roba qua. A te va bene, fermi, ferme tutte, fermi tutte, le comuni sono state chiuse da tempo. Non ritorniamo con questi temi. Dai, su, brava, espelliti, dai, sentiamoci la rettore, va. Riprendiamo il filo, abbiamo soprattutto riprendiamo possesso della nostra trasmissione. Ah, sì, perché l'ospite è un attimo impegnato. Accidenti, accidentaccio. È ritornato. Niente, non abbiamo speranza questa sera. Va bene, state ascoltando Spirito di Patata in, in versione a tre. Che ci piace a tre? Ecco, lo sapevo io. Infatti adesso no, vabbè, facciamo recensione, racconta il film The Brave. Oh, okay, no, perché... te lo contesto però. Dai, vabbè. Perché me lo vuoi dai, contestare? Una tu per tu. A te è piaciuto? Almeno a te ti è piaciuto? Vabbè, io vabbè, sì, ma perché ancora non capisco bene a che punto sta la Disney. Non l'ha capito, cioè, mi sembra che comunque mantiene un impianto femminista, però parliamone. No. Beh, vabbè, allora, raccontate di che film stiamo parlando, se i bambini piccoli rimanevano orsetti, io dicevo yeah. Sì, certo, è che era al momento. Piccoli rimanevano orsetti. No, vabbè, a un certo punto si trasformano in orsetti questi ragazzini piccoli. Per una sorta di incantesimo. Se rimanevano orsetti era queer, perché comunque la famiglia con gli orsetti, il padre, la madre, insomma, gli sta, vabbè, bene. Comunque quello per quello c'è Ranma Mezzi. Sono tornati. Non ho presente di, cioè tu non mi puoi estrapolare una cosa. Prima raccontate la trama, poi mi racconti questi orsetti, perché questo è l'ultimo film di animazione della Pixar che si è presa per la Disney. La Disney se l'è magnata. Sì, lo stavo dicendo. Se me lo fai dire, lo stavo dicendo. Sono i retroscena questo. Sì, no, è il retroscena di delle multinazionali ricche. E questa è l'ultima produzione. Praticamente è la storia di una principessa nordica, riccia, rossa, indipendente, ribelle appunto dei brevi e coraggiosa. E ma lei poi non viene discriminata perché è rossa. Ma meno male, dai, perché anche lì questo. Sono tutti rossi comunque, non volevo dirti, quindi è un po' difficile questa cosa. Brava. Ah, perché certo. Ecco, vabbè. E comunque, quindi cosa succede? Che insomma, come al solito, come in tutte le storie, la vogliono accasare con il principe. La cosa bella di questo cartone animato, sono diverse secondo me le cose interessanti di questo cartone animato. Primo, che i tre pretendenti sono tre brutti, idioti, stupidi bambini, uomini, vabbè, insomma, bambini, perché il film, lei è una bambina pure, insomma. Un adolescente, diciamo, no? È un adolescente, sì. E loro sono tre stupidi idioti adolescenti. Poi, l'altro aspetto, secondo me, positivo, l'aspetto positivo è che finisce, che insomma, che lei non si sposa, che questo già nei film della Disney, manco, niente, non era mai successo, non era mai successo, quindi già sta un passo avanti. Finisce che non si sposa, crea un legame diverso e primario con la figura femminile, e poi là possiamo fare il discorso sulla famiglia, però in realtà crea un legame primario e importante con la figura femminile, e alla fine convince la madre a comportarsi, cioè a fare le cose che fa lei, cioè si insomma influenza la vicenda. Questa sì, è vero, questa cosa che i personaggi maschili sono tutti coglioni, l'ho andata anche detta così, cioè, tutti, manco Gianni Palomba, tutti coglioni, i personaggi maschili tutti coglioni. Vabbè. A parte, vabbè, un po' il padre che, che gli mette l'arco in mano. John, aspetta, il padre è il primo coglione della vicenda, perché lei nelle prime scene lo prende subito in giro per quando sono a pranzo per il fatto che lui narra sempre la stessa storia, sì, certo, della sua vicenda personale quando ha combattuto contro l'orso che poi ha fatto perdere la gamba. Comunque abbiamo raccontato tutto il film adesso, nel senso che invece guardatevelo, Caruccio, portatevi le nipotine che non hanno troppissimi anni, perché almeno è una storia diversa. Comunque dai, finisce che non si sposa, che già mi sembra un passo in avanti in qualche ma perché modo. Devi dire già la fine? Questa è perché una prerogativa per andare a vedere un film che non è la solita smanceria in cui diciamo che non è la solita fiaba del principe. Io comunque azzurro. L'ho vista con tutti i bambini, mi sono divertita. Brava. Perché mi fa ridere questa cosa, che ci sono delle scene in cui ridono tutti e delle scene in cui piangono tutti i bambini. Ma che piangono con i sorsetti, no? perché erano molto piccoli, cioè, tipo 3 anni, 4 anni, quindi è un film che possono vedere. Non so se l'hanno capito questo, non lo so bene. No, guarda, io non riesco a capire bene i bambini fino a dove capiscono, perché non me ne intendo molto, però facciamo ridere perché piange, cioè esprimono molto emozione nel cinema. Cioè la prima volta, no, mi è successo un'altra volta che durante un film si potesse parlare, quindi io parlavo con i bambini, gente vicino a me. Poi mi sono comprata questo mega popcorn, perché eravamo in 3 con una bambina e stavamo con questo mega popcorn. Ti sei comprata una bambina per andare al cinema? Che abbiamo messo in mezzo a bambini, gli fregavamo i popcorn praticamente. Con la scusa abbiamo preso il popcorn gigante e ce lo siamo mangiato. Vabbè, niente. Vabbè. Abbiamo finito prima che iniziasse il film, ovviamente. Ottimo. Ci narrato il tuo sabato pomeriggio. Esatto. È vero, la sabato pomeriggio. Come siamo. Comunque secondo me erano un po' più grandini i bambini, perché non lo capisci a 3 anni un film che è pieno di complessità, di battute, di cose. Più che altro devi stare fermo al cinema 2 ore e mezzo. Boh. No, 2 ore e mezzo no, però 70-80 minuti sì. No, però secondo me c'ha una scena veramente bella in cui lei riscatta se stessa da sola. Quando fanno la gara con l'arco, quanto sei intelligente. grazie. Accogliere queste cose. Che... il riscatto. Che... sì. Lei dice io posso una fidanzata di me stessa. Com'è che dice? Esatto, che lei batte tutti e tre i coglioni pretendenti perché sa tirare con l'arco 100.000 volte meglio e fa tutti e tre i centri e quindi praticamente si fidanza con se stessa perché ha vinto lei. Quindi lei non è lesbica in realtà. Ma non lo sappiamo. Ma questa cosa che è uscita sul lesbismo, che lei era lesbica. Vabbè, hanno scritto posso dire una cosa? Lei in realtà dice io mi fidanzo per stessa, quindi questa cosa che è lesbica, boh, lasciamola pure ai posteri, l'ardo. Capito. Faranno sicuramente faceva molto dove? Con se stessa. Magari. Questo si può dire. Che fa? Faceva molto con se stessa. Ah, vabbè, certo. Certo. Beh, certo. Sono le 22.47, questo è Spirito di Patata. Se state su Twitter, hashtag Spirito di Patata, tutto attaccato, per commentarci. Ci trovate a mfla@landorossa.info per scriverci qualcosa. Se ci volete mandare suggerimenti sulla nostra pagina Facebook, Spirito di Patata. E poi, vabbè, ci potete chiamare 06 49 17 50. Fino alle 23 qua. Vi rispondiamo, sì. Però posso dire una cosa, al di là di ricordare le cose che stai dicendo, su questo film dovremmo pure affrontare la parte animale, non si può escludere questa cosa che c'è sta l'orso che la madre si trasforma in orso, tutta sta roba. Vabbè, ma animale, l'abbiamo raccontato tutto così. È molto presente, non si può far finta. Vabbè, di fa parte della trama, è così. Richiamo... succede, io non ho capito questa trasformazione, non l'ho capita perché la madre diventa figa per me, posso dire una cosa, quando si trasforma in orso prima. Vabbè, pure lei la denuncia è come queer, è molto queer, vedi che quello dice. Se lo dice Clo, perché se lei è vero, come la madre inizia un accollo perché dice devi fare così da principessa, poi a un certo punto si trasforma in orso. Ma si trasforma perché? Ma perché tra tutti gli animali l'orso? Aspetta, questo non si può dire, dovete vedervi il film. Ok. Invece no, questa cosa che lei si trasforma in orso perché la figlia gli aspetta, è. No, non lo dice, se allora, si trasforma in orso e lasciamo intendere. Perché si trasforma in orso e quello che succede è che lei gli prende questo aspetto animale da una parte. Beh, però la potevano fare lupo, chissà perché orso. I disegnatori hanno scelto proprio l'orso. Vabbè, perché c'è tutta la storia della famiglia che stava contro un orso, però... però perché non hanno fatto la mucca o il lupo e hanno scelto proprio l'orso? Vabbè, dai, non ti stare su queste cose. Non è un caso che l'orso... che noi abbiamo in testa Yogi. No, però lei a me mi ha rimandato un sacco a Mowgli. Vabbè, su questo... They don't play the song on the radio. Showing off my map of Tasmania. Showing off my map. E questa era Amanda Palmer, Map of Tasmania, ma sicuramente l'avete riconosciuta perché a questo orario più o meno passava spesso, perché era la sigla di Sisterhood is Blooming, quella dell'anno scorso. Però quest'anno c'è ancora Amanda Palmer, ma con il nuovo singolo. Così no, hai banda. Salutiamo la Sisterhood is Blooming, che si è spostata alle 17:15 e che andrà in onda settimana prossima, la prossimo martedì. E noi invece ricordiamo a tutti che appunto ci siamo spostate a questo orario notturno, così possiamo dire ancora. Siete delle spostate, perché sicuramente poi vi siete spostate un attimo. Vabbè, torniamo seria, perché noi facciamo una trasmissione seria, così non sembra. Sei serissima, siamo passate proprio dalla tribuna politica del nostro ospite non gradito, dalla nostra ospite non gradita, proprio a ridere in faccia agli ascoltatori e alle ascoltatrici e chiudere poi i microfoni bene, e riprenderci un attimo. Lo dicono tutti i medici, che sorridere fa bene, ridere, certo, fa bene. Certo, e infatti noi siamo qua per questo. Ah, che cazzo di... No, riso, risata, come mi è da ridere. Non dire queste parole in radio. Riso, risata? Soprattutto al martedì. Esatto. Non si può dire riso al martedì. Non dire se non ce l'hai nel sacco. Vabbè, insomma, andiamo avanti. Che ci volevi dire? No, The Brave l'abbiamo recensito. Poi avete visto qualcos'altro di interessante? Detta così, io ho visto reality, ma questi sono appunto tipo il sabato pomeriggio dell'ospite non gradito. Sono questioni personali, no, Caruccia. No, non c'è niente. No, invece, secondo me c'è un film in uscita di cui io ma Girls l'avete visto? No, Girls non l'ho visto, non però visto. C'è un film in uscita, no, che mi ha dato molto da pensare, che si chiama Killer Joe. Ah, ecco. Io ho visto il trailer l'altra sera, appunto, mentre ero al cinema. È praticamente regista super iper strafamoso, quello che credo, non voglio dire una cavolata, quello dell'Esorcista, probabile, può essere. Sì, insomma, comunque regista famoso, fatto questo film. Praticamente il canovaccio del film è che, insomma, a un certo punto c'è sta un figlio, una famiglia, lui che si rompe le scatole e vuole, beh, racconto spicciolo per come l'ho letta tra l'altro le recensioni, quindi tra l'altro, quindi. E insomma, assolda un killer per uccidere la madre. E poi c'è tutto il film in mezzo. Poi alla fine, siccome in qualche modo loro non hanno più i soldi per pagare il killer si prende come pegno la sorella di lui. Cioè, dico, vabbè, dai, su, basta. Basta, infatti, basta. Cioè, basta, dai, con questi, ma sempre questi immaginari, questi film, sempre queste donne uccise o date in pegno, cioè ci avete rotto, cioè inventate un'altra. Speriamo cosa. Qualche notizia pop. No, poi abbiamo la nostra consueta rubrica. Si sentono le patatine per radio. La nostra rubrica contro i pubblicitari della serie Cambiate Lavoro. Ah. La nuova pubblicità della Vodafone vede uno sbarbatella sfigato coi brufoli A letto con un boxerone a scellare con due bellissime ragazze. Perché se ti abboni a questa compagnia telefonica, questi sono i sottotesti delle pubblicità. Quale illusione? La fai finita? Insomma, buono. Anche le esatto, non ci vergogniamo a dire che era una grande compagnia telefonica. Non gli facciamo pubblicità, ma è rossa e tanto l'avete vista in giro, quindi sicuramente. Rossa, ma non è comunista. Ma non è comunista, okay. Manco per niente. E quindi sì, ma sul genere pubblicità potremmo ricominciare una parentesi che non finisce più, perché infatti ormai i media sono invasi da queste cose. Io ne ho visto un altro l'altra sera che non mi ricordo neanche che marca era, se erano le macchine, se era. No, vabbè. Non si possono guardare, non c'è uno spot in televisione che non abbia un'allusione o la fine o l'inizio, un pezzo che comunque in qualche modo è sessista. Cioè proprio sembra la matematica dello spot, non se ne esce. No, poi ci sono delle cose anche molto pesanti che vengono passate per molto simpatiche. Per yuppi, sì. Yuppi. E volevo parlarvi di un trailer, visto che stiamo ancora parlando di cinema, un trailer di un film che pare che sia andato per la maggiore, che tra l'altro è di un grande, cioè di un registone, che è quello di Ocean's Eleven, non mi ricordo come si chiama. Ocean. Ocean Eleven, cioè, questo vabbè, qua a Casar Bertone sta. Il film Ocean. Casar Bertone qua. Il film è Magic Mike e il trailer fa così, io ho visto solo il trailer che fa... Cantacela. No, no, vai. No, non c'è bisogno che si canta. Ci sta una grande festa e tutti ballano così e entra un tipo vestito da poliziotto, mette al muro una ragazza e gli fa... ha qualche cosa con cui mi potrei far male in tasca che la sto per perquisire? No, ha qualcosa con cui potrei pungere o mi potrei fare male se la perquisisco? No, perché io sì. E se, comincia e parte la musica e lui è uno spogliarellista. Cioè, una battuta del genere è veramente triste, a parte triste, ma anche dice che sullo sfondo appunto della violenza, certo, dove sì, la sì, violenza fa ride. A te, a me non mi fa ride. A me per niente. Forse bisogna fare una contro... una contro scenetta. E com'è la contro? La contro è che è qualcosa che mi potrebbe... Sì. Sì. Sì, e te meno subito. Così, è una cosa così. Spot. Sì. E te meno. Bum bum. E te meno. Bum bum, che parte con una clava così. Capito? E poi, infatti, io penso... che non ci, cioè che si possono fare altre pubblicità. Ora qualcuno dirà: ma un profumo come Chanel numero 5 non ne ha bisogno, però la nuova pubblicità non ci sono donne, non ci sono donne nude, non ci sono camicie, c'è cioè Brad Pitt in bianco e nero che parla e dice che si porta in giro Chanel numero 5. Vabbè, ognuno ha i problemi suoi, però nel senso, quindi voglio dire, non è che non si può fare un'altra pubblicità o investire i soldi in un altro modo e eccetera eccetera eccetera, si può fare, è solo la pigrizia, è la sì, comodità, anche, perché è molto però più è facile anche lanciare un altro immaginario, nel senso che il punto, no, è come dicevi te, si può fare un'altra cosa, ma cosa? A me sinceramente neanche Brad Pitt mi va molto bene, nel senso che va bene che quello è un prodotto mainstream eccetera, però noi riusciamo a lanciare ad esempio un immaginario. Non parlo di, chiaramente, di commercializzazione eccetera, ma un immaginario che ci rappresenta, qual è? Cioè, anche questo è, va bene dire questo ci fa, questa è violenza, però qual è invece quell'immaginario che ci rappresenta? Non è neanche la satira dei fumettisti che fanno bauristi, diciamo, per dirla così, no? Che fanno dell'ironia, no? Di sinistra, tra virgolette, che però anche quella non fa ridere molto, no? Allora invece lanciare un messaggio, ad esempio, d'autodifesa delle donne, per cui la tipa che dice c'è qualcosa così, sì, c'è una cosa che ti può far male. Per dire, anche là la donna si autodifende. E soprattutto mostra che la possibilità che hanno le donne di potersi difendere, come se venisse esclusa a priori perché non esiste proprio come opportunità. Certo, certo. Però questa pubblicità ancora non l'ho vista in giro. No, non invece esiste. Se ci fosse dovrebbe essere per me anche un po' spinta come alternativa possibile. Che volevi dire? No, che ho beccato quell'altra che avevo trovato, che ho letto, ho visto sui giornali della macchina, che una dice che cos'è la riserva, concetto puoi non pensarci, e l'altra dice che cos'è un meccanico, concetto puoi non pensarci. Ovviamente corredate alle due immagini della macchina ci sono due signorine con la faccia tipo sperduta che guardano nel vuoto, come se la macchina, il meccanico, la benzina addirittura, perché cos'è la riserva, concetto non puoi non pensarci, e lei che guarda tipo il nulla come per dire che non ha mai fatto benzina. Io vi assicuro, cari pubblicitari, che faccio benzina sempre io ai distributori chiusi, così risparmio 2 lire, quindi piantatela con queste stronzate epocali che non si possono più guardare. No? Sì. Esatto. E sono le 23.01, in realtà il martedì autogestito femminista e lesbiche è in chiusura, quindi è in chiusura anche Spirito di Patata. Vediamo già la trasmissione. Ciao ragazzo! Successiva. Un uomo aspetta. Si è avvicinato, l'ho visto. Sì, è Morfire con la sua trasmissione. Quindi adesso noi salutiamo tutte. Vi diamo appuntamento con Spirito di Patata fra 2 martedì. Andiamo a aggredire l'uomo fuori. Sai, buona, un secondo che sto salutando l'ascoltatrice. È indomabile questa. Non ti invitiamo più, manco per sbaglio. Va bene. Ma che è indomabile? Ma che è sto linguaggio? Basta, sono le 23.02. Indomita. Indomita. Vi salutiamo qui, vi lasciamo con Rossetto e Cioccolato di Ornella Vanoni, così... Mamma mia, come sei romantica. Come sono... Mamma mia, come stai messa. Vabbè, insomma... Vabbè, io non la dico la cosa perché... Dai. Molte donne pensano che questa... Molte donne scelgono questa canzone come canzone della propria storia. Perché? Spiegami perché. No, non l'ho capito. Perché è una canzone sensuale allo stesso tempo. Molto romantica. Romantica, erotica, eccetera. Però non è che tutte se ne possono appropriare e pensare, sì, questa è la nostra canzone. Vabbè, ognuno fa quello che tu gli guarda, pare. Quante volte ti è capitato? Cioè, se lo dici esatto, così è perché ti è capitato parecchio volte. L'ho detto, sì, sì. Sì, sì, è la nostra canzone, sì, sì. Vabbè, martedì vi saluta, ci vediamo la settimana prossima dalle 17. Ciao, buonanotte a tutte. Buonanotte. E scusatela. Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo d'incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo di stacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. Nere, il latte bianco e già si può vedere che piano sta montando. È quasi fatta, zucchero a velo, la gola soddisfatta e nella stanza il cielo. Si fa così per cominciare il gioco e ci si mastica poco poco. Si fa così e tutto apparecchiato per il cuore e per il palato. Sarà bello, bellissimo, travolgente, lasciarsi vivere totalmente, dolce, dolcissimo e sconveniente, quei bei peccati succedono. Quasi fa